Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. L'amministrazione sia che di sinistra che sia che di destra, comunque abbiamo avuto un aumento del 60% della spazzatura. Come vede qua nelle mie spalle, questo è il risultato. Noi siamo stati colpiti nella dignità e nella moralità. Napoli sedotta e abbandonata dallo Stato. Napoli sedotta e abbandonata, Napoli incantata dalla scomparsa dell'immondizia e poi ripiombata nell'incubo di cumuli di rifiuti per strada, di cassonetti incendiati, di proteste nelle piazze e ancora di assalti ai mezzi di raccolta e di strumentalizzazioni della malavita e di tutta quella triste contabilità che già nei giorni passati della grande emergenza aggiornava il numero delle tonnellate di monnezza ancora da raccogliere. 3 anni dopo, le notti di Napoli tornano ad incendiarsi di roghi e a roventarsi di tensioni, tanto da imporre la scorta ai camion dell'immondizia, come si fa con i pentiti o i testimoni che la camorra vuole togliere di mezzo. Il livello è salito, ammette preoccupato il questore Santi Giuffrè. Siamo nelle stesse condizioni di ieri sera, di 2 sere fa. Non c'è nessuna evoluzione positiva perché non sono state individuate soluzioni che consentono un rasserenamento. Il livello si è alzato, i danni ai mezzi sono stati notevoli, gli atteggiamenti, le aggressioni certamente vanno ben oltre quello che è un normale manifestare, pur comprensibile per le asserite problematiche che la vicenda determina, però mi pare che siamo su situazioni che lasciano sottacere anche altre circostanze che vanno ben oltre quelle che erano normali proteste degli abitanti della zona. Ci arriviamo a quello che c'è, ecco, al di là delle normali proteste delle persone per l'immondizia tornata nelle strade, ma quello che le volevo chiedere da un punto di vista di ordine pubblico: c'è un rischio di una protesta che peggiori ancora? C'è un rischio di disordini come quelli che ci furono a Pianura? Certamente c'è una situazione in questo momento non semplice, auguriamo di riuscire a fare scaricare i camion come è giusto che sia, perché se ciò non accade si determinano anche condizioni di invivibilità di tutta la provincia, della città, quindi è un'esigenza forte. D'altronde, chi veramente sta portando avanti una protesta deve, se è vero che non è manovrata da nessuno, prendere le distanze da chi può apparire esserci nell'ombra. Mi sembra abbastanza chiaro dalle sue parole che stanno convivendo nelle proteste di queste ore sia appunto la rabbia, l'insofferenza della gente per l'immondizia tornata in strada, che le strumentalizzazioni, una parola che è tornata forte nelle polemiche intorno all'immondizia a Napoli. Ecco, chi c'è dietro queste proteste secondo lei? Le modalità non mi sembrano, gli agguati dei danneggiamenti, i raid che sono verificati, non li posso ritenere ascrivibili a persone che stanno manifestando, anche se fortemente motivate sul piano sostanziale. Ci faccia capire meglio, vuol dire che è chiaro, sono state... che le modalità sono di stampo camorristico, altri personaggi possono avere interessi anche di natura ideologica, sono fatti che non riguardano il tutore dell'ordine pubblico, sono fatti di natura diversa, sono fatti che poi semmai vanno approfonditi a livello investigativo, ma in atto c'è un problema anche prevalente di ordine pubblico e poi spetta agli organismi investigativi che già sono al lavoro, d'intesa con la procura, evidenziare o enucleare o individuare altri motivi, i motivi di altro genere, i motivi di natura camorristica o di altro. Lei ha parlato anche di gruppi anarco-insurrezionalisti. Penso che una materia così frizzante, così interessante, può interessare certamente per formazione il crimine organizzato, ma perché escludere anche chi può avere interessi di natura ideologica? Ma avete un segnale di un fermento di questo tipo di gruppi in città? Non credo che personaggi, dinanzi a una manifestazione pacifica come alcune sere fa, non credo che arrivino 4 persone di giovane età in motore travisate e bruciano i camion. Quindi gli stessi cittadini, la stessa comunità dei comuni interessati hanno escluso che erano dei loro. Quindi non del posto? Lo dicono loro stessi, non lo sto dicendo io. Non del posto. Gli stessi manifestanti affermano che ci sono delle incursioni di persone, non loro. Ed è il motivo per cui, una volta che lo affermano, secondo me dovrebbero essere anche conseguenziali nel prendere le distanze. Fermo restando che poi le rivendicazioni si devono fare su altri tavoli, in altre circostanze, non certo in una sessione di piazza quale quella che si è determinata. Quando lei parla delle modalità dei raid che sono di stampo camorristico, immagina una pianificazione legata ad un momento ben preciso? Cioè si tratta qui, ci sono tutta una serie di problemi di vario tipo che sono in ballo. Ma il manifestante non interviene in massa a 40 persone, non sequestra i guardiani, non si dà a colpi di mazza, ai mezzi su cui magari che servono, che sono serviti a lui per lavorare, non esiste, insomma, il manifestante fa ben altro, non fa queste azioni così violente. Quindi lei bisogna scindere chi vuole manifestare veramente da chi invece vuole fare dell'altro. Secondo me questo è il problema. Quanti potrebbero essere quelli che hanno organizzato o messo in atto questo raid? Il raid in sé per sé, io penso una trentina, quarantina di persone. We were very happy to find the Queen City. Ci stiamo riprendendo, piano piano ci stiamo riprendendo. Ancora in periferia verso Pianura, Quarto, qua ancora un po' di casino. E le notizie ci sta ancora, sa. Zanna via d'ancora, ma mezzi dice che non pagavano gli stipendi. Qua l'emergenza non è stata mai risolta. Cioè qua ci stanno ancora proprio le montagne di sacchetti. Sì, in alcune zone sì, in alcune zone no. 2 anni e mezzo fa, dopo che l'emergenza rifiuti era stata pubblicamente dichiarata finita, questo era il quadro che avevamo trovato, una doppia faccia, con la città Napoli ripulita, tornata ad incantare turisti felici e una periferia, soprattutto verso il Casertano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi e poi ancora più in là, verso Aversa, con le barriere di Monnezza ancora per strada, pronte a sparire e a riformarsi più o meno alte nei mesi successivi, dove tra i mille ostacoli in grado di far saltare il precario equilibrio c'era anche la gestione degli operatori. In 15 anni in campagna la storia e i problemi legati ai rifiuti si sono ripetuti ciclicamente uguali ed è anche questo che fa dire a Gaetano Pecorella, presidente della commissione d'inchiesta sui rifiuti, mi aspettavo questa nuova emergenza perché, dice, non c'è stato ancora un intervento strutturale. Purtroppo se non si risolvono in radice i problemi creando le forme di smaltimento moderne, in particolare i termovalorizzatori, perché quello di Acerra pare che abbia grandi difficoltà di funzionamento e non funzioni mai a pieno ritmo, beh, è chiaro che prima o poi i problemi riemergono. Quindi diciamo il problema in modo strutturale non è stato ancora risolto in Campania. Noi ascolteremo come commissione martedì o mercoledì il prefetto, che appunto dovrà spiegarci che cosa è accaduto per cui si sta ritornando a uno stato di emergenza. La situazione si risolve solo se vengono creati, come in altre regioni, i termovalorizzatori, viene ridotto il numero di persone che lavorano, nel senso che sono dipendenti ma non sono necessarie, quindi con dei costi molto alti, o si organizza un sistema nazionale di smaltimento dei rifiuti come chiede l'Europa attraverso i termovalorizzatori, o il rischio che oggi la Campania, domani sarà un'altra regione, ma il problema tornerà alla luce. Restando sulla Campania, perché in questo momento è di nuovo in emergenza e perché ahimè è una delle regioni che più fortemente, diciamo, ha avuto una storia recente di almeno 15 anni di emergenza rifiuti, per cui anche chiamarla emergenza fa quasi sorridere, c'è un equilibrio precario legato al funzionamento del termovalorizzatore di Acerra e poi è un discorso anche di altre discariche che servono. Certamente il termovalorizzatore di Acerra oggi non riesce a svolgere la sua funzione perché non è strutturalmente adeguato, peraltro ci sono quintali, tonnellate di rifiuti che sono stati accatastati nella campagna di quella regione che dovranno essere smaltiti. Va fatto un intervento strutturale, non ci si può illudere che una volta liberata la città dai rifiuti, come è accaduto meritevolmente, poi senza che si programmi un sistema ordinario di smaltimento, questo non riemerga. Voglio però aggiungere che purtroppo in campagna la questione dei rifiuti è stata spesso all'attenzione della criminalità organizzata, la quale dal cattivo funzionamento del sistema pubblico trae vantaggio subentrando poi lei per lo smaltimento dei rifiuti. Veniamo appunto alla vostra visita in campagna, quali sono state le conclusioni? Noi depositeremo al Parlamento la nostra relazione. Le conclusioni sono che viene chiamata per esempio la terra dei fuochi perché la notte vengono bruciati i copertoni, non certo, vi è una tra presenza, Giuliano, Nola e Villa Literna. Non vi è una presenza sufficiente perché il controllo del territorio sia adeguato, il termovalorizzatore di Acerra è insufficiente, vi sono tonnellate di rifiuti accatastati in vari luoghi e che quindi va affrontata questa situazione davvero con un progetto adeguato. Presidente, veniamo alle infiltrazioni sul fronte delle regie criminali, dell'emergenza rifiuti e delle proteste collegate all'emergenza, la vostra commissione che quadro si è fatta? Vi sono numerosissimi processi che mettono in luce come le organizzazioni criminali considerino il traffico dei rifiuti come una fonte notevolissima di ricchezza. Le ragioni di questi attuali disordini ci verranno dette più direttamente dal prefetto. Certo, sono disordini che possono giovare a chi vuole creare il caos, cogliendo questa occasione, quindi di origine politica, possono essere disordini provocati dalla camorra e da organizzazioni criminali, perché laddove le strutture pubbliche lasciano lo spazio non funzionando, poi interviene ad un certo punto, per esempio, una società che potrà smaltire quello che c'è in giro, quello che viene lasciato in giro, e questa società potrebbe essere di interesse e di attenzione della camorra. Storielle. Storiacce. Un campo dopo una battaglia. Ecco cosa sembra questa strada di Napoli. Una moto attraversa la via e fa la gincana tra residui di sacchetti rotti e cumuli ancora accatastati ai lati. I cassonetti sono rovesciati e i rifiuti sono ovunque. Un anno e mezzo fa l'accensione sotto i riflettori del termovalorizzatore di Acerra sembrava aver bruciato tutti i passati problemi. Invece l'equilibrio è saltato di nuovo perché manca ancora un piano strutturale, ha detto nella prima parte di Storiacce Gaetano Pecorella, PDL, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti. A breve presenteranno una relazione conclusiva di cui ci sta anticipando i risultati. Noi abbiamo fatto per esempio questa constatazione che vi è stata una guerra contro il termovalorizzatore di Acerra, il quale mette in atmosfera fumi che non sono assolutamente in nessun modo pericolosi e a 100 metri o a 200 metri ci sono fabbriche che fanno uscire invece fumi neri rispetto alle quali non vi è stata nessuna presa di posizione tra virgolette popolare. Questo non ci ha molto insospettito sulla genuinità di certe manifestazioni. La Commissione europea, che già una volta aveva condannato l'Italia sul fronte rifiuti, ancora una volta dice che segue e valuta eventuali interventi per questo ritorno dell'emergenza Campania. Una Campania però dove, se non sbaglio, una serie di fondi comunitari destinati dall'Unione europea alla Campania proprio per i rifiuti sono bloccati e non sono pochi. 10 milioni e mezzo del periodo 2000-2006 e 135 milioni del periodo 2007-2013. In qualche modo voi avete toccato anche l'aspetto, diciamo, dei rapporti con l'Europa e anche quindi inevitabilmente il capitolo gestione, fondi comunitari, che in Campania, ahimè lo sappiamo bene, anche quella è un'altra nota dolente da un punto di vista, diciamo così, di utilizzo criminale. Noi abbiamo constatato una circolo vizioso dal quale è difficile uscire. I fondi sono bloccati perché la comunità europea non li concede fino a che non vede che si sia tornati alla normalità e vi sia veramente un sistema funzionante per lo smaltimento dei rifiuti. E nello stesso tempo però non vi sono i fondi per le strutture necessarie per farli funzionare, perché appunto i fondi sono bloccati, quindi noi abbiamo, interrogando amministratori pubblici, e abbiamo dovuto constatare questa singolare e pericolosa situazione, che i fondi non ci sono perché non ci sono le strutture non ci sono perché non ci sono i fondi. Come se ne esce da questo circolo vizioso? Io credo che ci dovrebbe essere un serio investimento in campagna per creare le condizioni perché l'Europa poi liberi i fondi, altrimenti davvero la situazione campagna non troverà mai una via d'uscita. Un cortocircuito di fondi tra l'Europa e le regioni e di fondi di varia natura intorno alla gestione dei rifiuti ne girano tantissimi ed è per questo che altrettanto numerose sono le inchieste scoppiate negli ultimi mesi sull'immondizia, storie di abusi, storie talvolta di malavita organizzata, storie molto spesso di corruzione, presunta certo fino al terzo grado. L'ultima arriva da una regione fino ad ora vergine rispetto a questi problemi, l'Abruzzo, con l'arresto di un assessore regionale e dell'imprenditore che aveva il monopolio o quasi di questo settore. Ed è per questo che la commissione parlamentare d'inchiesta, ci anticipa il presidente Pecorella, ha già chiesto di acquisire gli atti. Ma andiamo a vedere anche le ragioni di così tante indagini della magistratura sul tema rifiuti. Le ragioni possono essere molte. La prima certamente è che è un settore, tra virgolette, dell'economia in cui i capitali circolanti sono altissimi, quindi naturalmente dove c'è denaro c'è anche interesse, c'è anche facilità di corruzione o di violazione di norme penali. La seconda ragione è che vi sono poche strutture pubbliche funzionanti e quindi naturalmente la mancanza di una buona organizzazione pubblica favorisce i comportamenti criminali. E la terza ragione è che la normativa preventiva è insufficiente, basterebbe pensare che ancora oggi non si riesce a fare la tracciabilità dei rifiuti, basterebbe pensare che i reati sono tutti reati contravvenzionali, vi è una direttiva europea che deve essere attuata. Ci auguriamo che questa nuova normativa più severa dei suoi effetti. Con la commissione avete anche visitato, siete stati in molte regioni italiane, avete fatto tappa anche in Abruzzo? No, l'Abruzzo fino a questo momento non rappresentava per noi una terra di interesse con segnalazioni particolari, abbiamo fatto Lazio, Campania, Sicilia e Calabria e poi la Lombardia nel momento in cui è scoppiato il caso della presenza dell''Ndrangheta in Lombardia. Questa inchiesta potrebbe in qualche modo potervi interessare per una futura visita in Abruzzo? Ho già dato incarico ai miei uffici di prendere contatto con i magistrati che stanno seguendo l'inchiesta in modo da farci dare la documentazione proprio per vedere e per intervenire e rendersi conto di che cosa accade in una regione che sino ad oggi non c'era stata segnalata in nessun modo per emergenza rifiuti. Quanto secondo lei nel sistema dei rifiuti gli illeciti in generale, termine piuttosto ampio e anche abbastanza vago, comunque l'illecito nelle procedure è diffuso? Ma noi abbiamo trovato situazioni di particolare gravità in molte procedure. Basterebbe pensare ai famosi 4 termovalorizzatori della Sicilia, per cui fu fatta una procedura che era fin dall'inizio destinata a fallire perché non furono fatte non furono seguite le formalità. Abbiamo trovato discariche autorizzate senza le dovute procedure. Quindi è un fenomeno direi abbastanza diffuso. Il fenomeno dello smaltimento dei rifiuti è anche un settore dove i comportamenti criminali sono particolarmente diffusi. E quindi dove anche le varie consorterie di vario tipo possono trovare più spazio di azione? Ma possono essere le ragioni più disparate o la presenza di gruppi collegati a parti politiche, la presenza della criminalità comune, la presenza della criminalità organizzata. Certamente i soldi che girano, i capitali che girano in questo settore sono rilevantissimi ed è un settore che facilmente consente le infiltrazioni. Ecco perché può essere una corruzione politica, può essere la presenza della mafia o dell''Ndrangheta. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce sul sito radio24.it e da lì accedere anche al nostro audioblog. Ciao, scrivetemi, ci sentiamo sabato.